mesi più nulla decidi tu. Non ci credi, ma è proprio così. E io mi devo condannare, o mi devo perdonare. Cosa c'entro e se c'entro in che misura sono colpevole? Amo da starmene qui solo fra i soffi e i simili, oltre la meschinità. Qui c'è qualcosa